Un esordio 50-50, giocato abbastanza male i primi due tempi e credo che sia dovuto più alla tensione nervosa che non altro. Come avete visto, i stranieri giocavano molto più sciolti, molto più sicuri. Sono 4 anni che giocano insieme e l'anno scorso, vincendo la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Pechino, si sono sentiti molto più sicuri, erano padroni della situazione. Noi invece i primi due tempi eravamo un po' con la testa per aria. Probabilmente anche molti di questi ragazzi è la prima esperienza internazionale, vedere questo pubblico favoloso, più di 5.000 persone, probabilmente la tensione ha giocato un brutto scherzo. È mancato che dopo il 6-6 ci sono stati un paio di errori che si potevano evitare, che ci hanno costati l'8-6 e poi è stato difficile recuperare. Partita 50-50, coach, cosa c'è da salvare? Anche perché adesso ci aspetta anche una Romania agguerrita. Ci aspetta una... da salvare ci sono questa reazione, questo parziale di 4-1 che non è facile farlo agli Stati Uniti, giocando un'ottima pallanuoto, e c'è da tenere in giusta considerazione la Romania, però dobbiamo pensare principalmente a noi stessi. Su cosa lavorare? Sulla difesa, perché comunque fare 8 gol agli Stati Uniti non è male e dobbiamo cercare di migliorare la percentuale con l'uomo in meno.